calcio, il campo, profondità dell'erba. Noi che amiamo questo sport ci è mancato tantissimo. E adesso che abbiamo la fortuna di ricominciare, credo che dovremmo farlo con la maggiore passione e entusiasmo possibile, per cercare anche e soprattutto di dare divertimento e svago ai tifosi comunque di calcio che ci seguiranno da casa, e mettiamocela tutta. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao Giovanni Capuano. Ciao Carlo. Ciao. Si scrive 12 giugno, ma è 25 aprile dello sport italiano, che va al di là di Juventus, del Milan, della Coppa Italia, del calcio stesso, quindi permetteteci di essere felici. Chiedo se è felice, e lo ringrazio, anche al presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiede se sono felice io a parlare di calcio, come invitare un oca a bere. Però sarà felice, al di là della sua Juventus, del Milan, della Coppa Italia, del calcio stesso, del fatto che ci sia questo giorno. Ho paragonato questo 12 giugno al 25 aprile dello sport italiano. Esagero? Sì, un po' sì, perché quell'altra era più importante. Ritrovavamo la libertà dopo anni di regime. Diciamo che è una bella data, però, perché, su questo avete ragione, insomma, si torna a immaginare un po' la vita di prima, no? Uh-huh. Sì, e da stasera ore 21 magari ci riusciamo anche, Pier. Sì, no, ma io infatti vorrei che il presidente ci raccontasse, ci inquadrasse politicamente, uso volentieri questo avverbio, dal punto di vista proprio sociale, che cos'è tutto questo, nel senso che al di là della contentezza di chi segue il calcio, adesso parleremo anche di Misano, del doppio appuntamento, sì. C'è proprio un senso della vita che riparte, quindi anche quello a cui il calcio non piace, io credo che una nostra sera possa tirare un piccolo sospiro, perché si rende conto che la vita pian piano, con tutte le precauzioni, tutte le prudenze e tutte le attenzioni che dobbiamo avere, però si sta riproponendo, nel senso sì, di sì, guardi, noi proprio ieri sera abbiamo trovato l'accordo con il governo per un nuovo DPCM che sostanzialmente fa ripartire, sono le linee guida per riaprire gli asili nido appena i comuni o i territori saranno in condizione, le sale gioco, persino le discoteche probabilmente tra qualche settimana, però insomma ci sono già condizioni di tornare a riaprire anche quelle attività più complicate che erano chiuse, ormai quasi tutte cominciano a ripartire. Beh, guardi, lo sport, io ho tenuto la delega allo sport già nei 5 anni del primo mandato, e lo tengo anche questo. Molti si stupirono perché lo sport nelle regioni non era considerato una delle deleghe più importanti. L'ho voluta tenere perché lo sport per me è un valore fondamentale. Innanzitutto è socialità, è corretti e sani stili di vita, se applicato bene. Pensate quanto si risparmia di spesa sanitaria pubblica se nella fascia soprattutto dei bambini, dei ragazzi, si combattesse l'obesità. Certo, se ci sono motivi di salute è un'altra questione, ma nella gran parte con l'attività motoria, quindi non una ricetta medica ma proprio l'attività fisica. Oppure pensate cosa vuol dire non tenere chiunque con la testa chinata sullo smartphone tutto il giorno, ma in mezzo agli altri, a giocare, a vincere, a perdere, a imparare cosa vuol dire stare insieme al di là della competizione, quindi al di là dei professionisti, anche proprio tra gli amatori e amatori dilettanti. E poi più in generale, come dicevate voi, lo sport è un veicolo formidabile anche di comunicazione, dopo su Misano lo diremo, ma sì. Nel mondo oggi la musica e lo sport, con i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, le nuove tecnologie, sono i più potenti veicoli, a mio parere, persino di promozione di un territorio. Certo. Quindi sì, stasera credo sia una giornata che può segnare il fatto che via via si ritorna a quello che un po' vivevamo prima. Sai Carlo, se posso, mi piacerebbe chiedere al presidente Bonaccini da quanto tempo non legge una favola di Hans Christian Andersen, e poi ti spiego il perché. perché in realtà lui parla in maniera distaccata di quello che succederà questa sera, e invece ne è stato un protagonista, perché lui è stato il bambino che a un certo punto ha detto il re è nudo. Mi piacerebbe che ci raccontasse che cosa è successo in quelle ore tra il 30 aprile e il 1 maggio, quando il ministro Spadafora, non ancora rinsavito, aveva determinato che i calciatori non si potevano allenare nei loro centri sportivi, ma al massimo andare al parco, e c'è stato un bambino, il presidente Bonaccini, che ha detto no, in Emilia Romagna si potrà fare, e da lì in poi è cominciato tutto. A ruota tutto. Sì, però per serietà dal mio punto di vista, col ministro Spadafora trovammo poi l'accordo, quindi nessuna divisione o meno. No, a me, guardi, il tutto è nato, perché poi bisogna raccontarle sempre con verità e semplicità. Feci una videoconferenza con Giovanni Carnevali del Sassuolo, Claudio Fenucci del Bologna, più altri dirigenti di Spal e Parma, perché poi noi abbiamo anche questa curiosa contemporaneità per cui sia l'unica regione che ha 4 squadre in Serie A, lo dico con orgoglio in questo momento. C'è anche la Lombardia, Presidente. C'è anche la Lombardia, Brescia, Atalanta, Inter e Milan. Quest'anno, e noi 2 anni, l'anno scorso non c'era, o c'era il Brescia anche l'anno bene. Scorso? No, no, l'anno scorso no. No, non c'era. 2 anni. Allora, facemmo questa videoconferenza e loro mi dissero, guarda, dalla prossima settimana qualsiasi calciatore, sportivo, che sia dilettante, professionista, ma qualsiasi cittadino, aggiunsi io, potrà ritornare a correre nei parchi delle città, se distanziato, da solo, perfetto. E mi dice, guarda, c'è un problema, perché noi abbiamo professionisti che al di là del loro valore, il rischio è che quando vanno a correre lì, i cittadini, i tifosi, e io dissi, oh certo, se me lo dite voi, io feci questa battuta, mi immagino Cristiano Ronaldo che corre nel parco di Torino, o in centro a Torino, rischia di portarsi dietro 2000 tifosi o ragazzini che gli chiedono l'autografo, e quindi l'assembramento c'è sicuro. Allora, siccome chiedendo garanzie loro mi spiegarono che non avrebbero aperto i centri sportivi con tutte le decine di persone che ci lavorano, i giocatori arrivavano da soli in auto, si cambiavano a casa, tornavano a casa a fare la doccia, correvano in campo senza allenatore, di certo era molto più sicuro per i professionisti, che sono il vero patrimonio delle società, e per tutti gli altri che non gli andavano vicino, che questi fossero in un luogo dove ci sono dai 3 ai 10 campi sportivi con un senza assembramenti. E prendemmo quella decisione perché a mio parere tutelava chiunque. Ecco, tutto lì, perché poi le cose nascono poi molto più dal confronto. Sì, no? Che detto oggi è tutto facile, perché è tutto normale, ma era drammaticamente normale anche allora, solo che allora c'era un sistema che riteneva che questa cosa non si potesse fare, finché non è arrivato Bonaccini a dire il re è nudo. Parliamo di Misano, dai, poi. Sì, di questa vicenda in termini, se vuoi, anche più politici, ha dimostrato che esiste una centralità, un ruolo dei governatori, dei presidenti delle regioni, ovviamente, il titolo quinto, sappiamo benissimo, tutto sulle competenze sulla sanità e non solo, e sono stati protagonisti, e questo è assolutamente indiscutibile, però devo dire apprezzo molto che dopo quella presa di posizione decisiva poi ci sia stato anche il riconoscimento del fatto che il governo successivamente si è allineato, devo dire in maniera chiara. Poi anche l'altro giorno quella frase, siamo orientati a far giocare a 2 giorni dalla partita, ho fatto un po', io per esempio stasera sono orientato a vedermela, cioè ci possiamo scherzare sopra, però quello che dico è che in un'emergenza come questa qualche sbavatura, qualche momento di contrasto ci sta, l'importante è che poi alla fine si remi tutti dalla stessa parte, e mi sembra che alla fine sia andata così. Presidente, poi, speriamo che il virus ci lasci liberi, ecco. Presidente, le voglio chiedere ancora questo, poi la lascio ai suoi impegni. A proposito di Misano, appunto, prima sentendola parlare della riapertura di molte attività che ci stanno a cuore, ho immaginato Misano che avrà un doppio appuntamento, e questo è ufficiale da ieri, il 13 e il 20 settembre, sì, per il moto mondiale. Io sogno anche con gente sulle tribune. Guardi, io me lo auguro, lo dicevo ieri, per ora no, non si può, però se la curva epidemiologica, e quindi per questo io invito anche chi ci ascolta a non dare per scontato che abbiamo sconfitto il virus, assolutamente no, il virus sarà sconfitto quando ci sarà il vaccino a disposizione di tutti, e quindi vorrei evitare che per colpa di qualche imbecille i sacrifici che abbiamo chiesto agli italiani o agli emiliano romagnoli venissero vanificati per quei coglioni che pensano che sia tutto finito. No, continuiamo a tenere i distanziamenti, a rispettare le disposizioni, usare la mascherina se non siamo troppo lontani dalle persone, e in questo modo, come vedete, via via stiamo parlando di ripartenza. Stasera stiamo parlando che riparte il calcio, e quindi Io mi auguro davvero che a settembre sia possibile, non dico tutti, ma almeno una parte di persone che possano entrare. Ce lo auguriamo, sarebbe peraltro la dimostrazione plastica che davvero la curva dei contagi è crollata. Dopodiché, perché abbiamo scommesso su quell'appuntamento? Perché anche fossero a tribune chiuse, e mi auguro di no, dicevo prima, ci sono oltre 1 miliardo di appassionati nel mondo che seguono i motori, le quattro ruote. Quanti sono i paesi collegati in diretta o magari vedranno in differita le immagini del MotoGP? Farlo due volte e avere le prove per altri giorni, in quella decina di giorni, se noi saremo capaci, questo è un compito nostro, di promuovere la Romagna, l'Emilia-Romagna, Misano, la Riviera di Rimini, è un fatto straordinario, perché abbiamo bisogno di dire che qui si è in sicurezza col turismo, che qui dove si sono inventati senza avere il mare dei Caraibi per quanto pulito, grazie a straordinaria ospitalità dei romagnoli che non ha eguali nel mondo, servizi per tutte le età e per tutte le tasche, si sono inventati una delle industrie turistiche più importanti al mondo e noi vogliamo tornare lì, perché vogliamo dare lavoro, vogliamo garantire il fare impresa. Lo sport è un veicolo formidabile, ci guarderanno in tanti e se sarà possibile far entrare le persone come lei si augura, io mi auguro ancora meglio. Pensi che ad ottobre avremo 3 tappe del Giro d'Italia proprio lì. Le faccio un'altra confidenza e do una notizia. Stiamo lavorando col mio presidente dell'azienda di promozione turistica che si chiama Davide Cassani, che quando qualche anno fa lo nominai tutti si stupirono che non misi un politico, no? Ma perché avevamo un divulgatore formidabile, uno che conosce il mondo, conosce lo sport, e noi stiamo provando, il nostro sogno è fra qualche anno portare il Tour de France per la prima volta in Italia, perché vogliamo creare le condizioni per parlare del nostro paese, della mia regione. Misano è tutto questo, il MotoGP due volte in Emilia Romagna in un'occasione che probabilmente sarà unica, è tutto questo e lo sport è tutto questo. A proposito di creare opportunità dopo un disastro come quello che abbiamo vissuto, grazie Presidente. Grazie stasera, a voi. Stasera come finisce, Presidente? No, non vorrei mai che dopo m'azzardo un pronostico e poi faccio la figura del coglione io. No, non lo so, è chiaro, potete immaginare cosa mi auguro io. Però già il fatto che giocano per me è già una grande soddisfazione per tutti. Grazie davvero Presidente. Grazie. Vi faccio sentire adesso una cosa. Prendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza. Noi del Milan siamo sempre stati molto, molto attenti, abbiamo sempre preso le precauzioni necessarie e siamo sempre stati favorevoli alla ripresa del campionato. È chiaro che l'assenza dei tifosi è un danno enorme, ma in questo momento è il male minore. Questa stagione abbiamo affrontato 2 volte la Juventus, sono state sempre partite difficili sia per noi ma anche per loro, siamo usciti noi dal campo con qualche rimpianto. Se loro hanno trovato la stoccata giusta nel momento giusto nelle prime 2 partite, adesso dovremmo essere bravi a provare a trovarla noi. Questo, come avete capito, era Stefano Pioli. Come sarà la vostra serata, ragazzi? Giovanni? Assolutamente dalle 21 Juventus-Milan e domani dalle 21 Napoli-Inter. Poi il problema è che ne avremo tante di serate così e diventerà anche un po' pesante dal punto di vista lavorativo. Però non ci lamentiamo, siamo contenti e da un certo punto di vista è anche quello che tra pochi, insomma non siamo tantissimi, abbiamo inseguito sin dall'inizio di marzo e per questo abbiamo onorato anche il presidente Bonaccini, che dal mio punto di vista è stato un piccolo eroe. Sì, che ha detto molte cose che noi ripetevamo in continuazione a partire dai centri sportivi. Dimmi quel discorso che ha fatto lui sui soldi che risparmia la sanità attraverso lo sport, se lo sport come strumento di prevenzione, è uno dei discorsi diciamo classici di tutti i politici sportivi, no? Di tutti quelli che si occupano costantemente di sport. Sentirlo fare da un politico nazionale diciamo generalista fa piacere, ecco perché è vero, perché è così, perché i paesi che investono di più nello sport, nella pratica sportiva, nell'attività motoria fin da ragazzi, poi è statisticamente dimostrato che hanno anche un risparmio in termini di sanità. Stasera vedo la partita in un posto bellissimo con il mio amico Ciro Ferrara e domani sera vedo un'altra bella partita in un posto altrettanto bello, che è sempre lo stesso, con Ciro Ferrara, quindi anche no, se no, la voglia di calcio è tantissima. Per quanto quel posto bellissimo, credo lo baratteresti volentieri con quello di Andrea Riscassi questa sera. Ah, lui è, certo. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, bordo campo questa sera per raccontare per la Rai la partita che credo farà gli ascolti più o meno di una finale mondiale, Andrea. Penso di sì, dopo 95 giorni senza calcio, credo che chiunque abbia un minimo interesse verso questo sport non potrà non vedere la partita, anche perché è un segno anche di ripartenza di tutto il paese. Sì, e ti porterai in campo tutta la nostra invidia, mia, di Pardo e di Capuano, credo anche, no? Giovanni. Sì, non sarà facile. Sì, sicuro. Non sarà facile. Cioè, sono diciamo, più che la partita in sé, è tutto il contorno che andrà capito, individuato, per cui sono seduto in macchina fermo, ma proprio da Torino credo se manca parecchio, perché le regole di ingaggio sono notevoli, e poi siamo i primi, per cui faremo da cavie. Diciamo, no, farete un grande lavoro. Vai. Allora. No, faccio ovviamente un grande in bocca al lupo. Io penso che il lavoro del bordocampista cambierà un po', anche quello del telecronista, perché tante cose si sentiranno. Insomma, uno dei pochissimi aspetti positivi di questa assenza dei tifosi, che speriamo duri il meno possibile, sia chiaro, ripetiamolo mille volte, è proprio il fatto che si sentono le voci dei protagonisti, che si coglieranno anche con i microfoni da lì delle cose che di solito il trasporto del pubblico non ti fa sentire. Quindi credo che anche il lavoro del bordocampista un pochino cambierà stasera, Andrea. Sì, no, sicuramente. Al di là del fatto che stasera dovremmo essere dietro le porte, che di solito sono le postazioni che hanno i non broadcaster, tipo finale di campionato Under 21, se l'Italia non è qualificata, Spagna-Germania la vedi da dietro la porta, da dove non è che si ascolti tantissimo gli allenatori, diciamo, mi supponi cosa possa dire. Stasera sarà facile, perché comunque a distanza chiaramente Sarri non è ascoltabilissimo, perché non è uno di quelli che urla, cioè non è un allenatore alla Gasperini. Pioli credo che si sentirà di più, però come lo sento io lo sentirà anche il telecronista Bizzotto, quindi avendo fatto tanti bordocampo in primavera so che spesso le indicazioni tattiche venivano prese direttamente dal telecronista, perché non essendoci rumore in primavera, non essendoci il tifo, ho già provato quella sensazione lì, però vedere le partite da giù è proprio, cioè, anche più alla fine, è una cosa meravigliosa. Dicevi, Giovanni, cosa ma vuoi tu chiedere? Sai già quale allenatore devi marcare stasera? Io seguo il Milan, l'ho seguito all'andata, avrei dovuto seguirlo a marzo quando ci hanno stoppato all'ultimo, l'ho seguito ieri, diciamo, la conferenza stampa, anche se l'hanno fatto solo con Milan TV, e quindi stasera, diciamo, però, giocatore del Milan arrivo Pullman, dirigente del Milan mezz'ora prima della partita, e gli allenatori e i giocatori alla fine. Verrà tutto fatto in campo se non piove. Su Milano non piove, spero che non piove neanche su Torino, perché in questi giorni è stato disastroso il tempo. Va bene per gli allenamenti perché stanno allenando a fresco, però 15 gradi con la pioggia non è il massimo, soprattutto per fare delle interviste in campo. Ecco, leggevo un protocollo molto estremamente scandito fin nei secondi. Alle 20:51 entreranno i raccattapalle, 20:54 e 30 secondi gli arbitri usciranno dagli spogliatoi, 20:55 il Milan, 20:56 la Juventus. Il tuo protocollo qual è? Noi abbiamo una riunione interna alle 17, para 17:15, poi c'è la riunione con la Lega alle 18 e dalle 19:30 siamo in onda. Cioè, le cose scritte così è difficile che vengano rispettate al secondo, nel senso che più o meno la partita inizia alle 21, però se inizia alle 21:01 non succede nulla. Comunque è chiaro che dovendo distanziare l'arrivo pullman, quindi di solito i pullman arrivano un'ora e mezza prima, in questo caso ci sarà uno dei due pullman che arriva un'ora e 40 prima e l'altro un'ora e mezza prima, perché tipo allo Juventus Stadium la parte in cui passano è la stessa e quindi dovranno essere scaglionati. È chiaro che cambierà un po' tutto. Stasera sarà, diciamo, tra le tante curiosità del fatto che il pallone torna a rotolare, c'è anche il fatto di capire come sarà il nostro lavoro in questo nuovo contesto, che non sarà agevolissimo. Danze su un fronte appena liberato. Mascherina o no? Quando sei a bordo campo? Anche a bordo campo, quindi, anche se sarai da solo distanziato di metri e metri dal tuo vicino di posto. Sì, io ho mascherina e guanti appresso, perché quella è stata richiesta esplicitamente. Ci misureranno la febbre all'ingresso, non ho capito se ci sarà il test serologico. Comunque, verremo, dato che siamo solo in 300, quei 300 verranno super monitorati, quindi le ultime partite della Serie A prima del lockdown, le persone ammesse erano 500, adesso sono 300, perché comunque sono successe delle cose drammatiche in questo paese, quindi reazione è quella, pochissime veramente. Sì, danze sul fronte di guerra appena liberato, dicevo prima. Chiedo un'ultima cosa a tutti e tre, che partita vi aspettate? Sarà la prima volta dei 5 cambi, sono stati tolti in corsa i supplementari, qui le opinioni variano, secondo me non così ha ragione proprio per via dei 5 cambi, proprio per via di un regolamento che viene cambiato in corsa. Che tipo di partita vi aspettate? Comincio da Pardo. Condivido sui rigori, che tutto sommato mi sembra un po' un eccesso di zelo, ma va bene. Per carità, se serve a scongiurare qualche rischio in più, amen. Guarda, il Milan in questi anni con la Juve, nonostante la differenza che è stata enorme, spesso veramente siderale, però ha fatto qualche buona partita, tante volte ha perso di poco, non c'è mai stata, non so se ricordo male, non c'è mai stata una sensazione negli scontri diretti di clamorosa differenza tecnica. In più c'è l'effetto della mancanza del pubblico. Io mi aspetto una partita complessivamente equilibrata. È chiaro che la Juve ha più soluzioni e i 5 cambi possono essere una ulteriore arma in più, sì. Nel senso che la profondità della rosa è nettamente superiore, però non mi aspetto una Juve che se la porta da casa, ecco. No, certo che no. Giovanni? Ma Pier ha perfettamente ragione, c'è l'unico precedente, che contrasta con quella ricostruzione, il 4-0 della finale, sì, di Coppa Italia, però lì, esatto, pesò in maniera particolare la serata di Donnarumma, nel senso che se giochi a porta vuota poi sì, è anche più facile che escano differenze che magari in campo non ci sono. Sì, tutte le altre furono partite molto tirate e qualche volta anche con esito a sorpresa. Io però credo che le assenze che ha il Milan, e quindi Ibrahimovic, Teo Hernandez e Castillejo, siano troppo da superare come gap rispetto anche a un risultato di partenza che non è malissimo, perché è vero che l'1-1 favorisce la Juventus, però è anche vero che se tu fai un gol lì a Torino poi crei le condizioni per andare magari a prenderti la qualificazione, e quindi io vedo molto più aperta la semifinale di domani tra Napoli e Inter, che pure sì, è finita l'andata con la vittoria esterna del Napoli, piuttosto che questa. Sono d'accordo. Andrea, tu non è la tua prima partita a porte chiuse, se non sbaglio? No, però che il Milan è una situazione disperata, perché ci sono 5 primavera convocati, non ha panchina, non ha i 3 giocatori più forti, e c'è stata la lite con Gazzidis 2 giorni fa. Sono le classiche situazioni nella quale nessuno scommetterebbe su Milan. Il Milan può fare la partita del secolo. Io ero a bordo campo Riyadh, la Lazio rispetto a Milan è un'altra squadra, però le squadre che hanno voglia di vincere riescono a battere la Juve quest'anno, quindi sicuramente il pronostico è meno chiuso di quello che sembri, perché il Milan ha in sé storicamente la capacità di ribaltare situazioni che sembrano disperate, quindi non sarei così, sulla carta non c'è partita, stasera vince la Juve 3-0 e tutti a casa. Sì, stavo vedendo ora le immagini di un amichevole che ha giocato il Liverpool ieri, e l'incognita, ne parlavamo nei giorni scorsi, è il fatto che le squadre arrivano agli appuntamenti ufficiali senza aver mai giocato nemmeno un amichevole. Però questo solo partitelle. No, ci sono mille incognite, anche il pubblico secondo me è un tema, un fattore stadium c'è stato in questi anni per la Juve, non perché non ci sia un effetto, sì, però Juve-Inter dell'8 marzo ti racconta che la Juventus, se motivata al giusto, fa anche meno del pubblico. Vediamo. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Ovviamente ciao. Ti sentiamo tutti questa sera in partite, peraltro ragazzi, ed è giusto risottolinearlo, in cui il sonoro e il parlato, e a noi che facciamo radio piace molto, avranno un significato speciale. Giovanni? Sì, assolutamente. Io sono molto curioso domani di andare a leggere i dati d'ascolto, domani e domenica mattina, per queste due semifinali. Poi so che adesso approfondiamo il tema. Se però si dovesse seguire l'onda di chi per settimane ci ha raccontato che non c'era interesse nel ritorno del calcio, oggi avremo degli ascolti bassi. Io sono convinto che invece domani vedremo uno Juventus-Milan con ascolti altissimi, anche se chiaramente il prodotto televisivo, e ne abbiamo parlato tante volte in queste settimane, viene penalizzato dal fatto che si giochi a porte chiuse, perché un conto è raccontare una cosa settica, come sarà in parte la partita di questa sera, un conto è poter raccontare una grande manifestazione popolare, un grande spettacolo che coinvolge anche uno stadio pieno, le tribune, tutte quelle dinamiche e quella chimica che si crea, però quello è, ci dobbiamo almeno ancora per qualche settimana, forse per qualche mese, rassegnare a questo tipo di calcio. Certo, prima sentivo parlare il presidente Bonaccini e abbiamo letto tutti oggi i giornali la riapertura delle discoteche, insomma, di tantissime cose, insomma, tra un po' andremo in battaglia, carissimo Pierre, anche per la riapertura degli stadi, perché altrimenti stiamo qui a guardare il re che passa nudo e a dire che ha degli abiti bellissimi. Ma in questo caso il re e gli abiti sono l'idea che il calcio debba continuare a stare a porte chiuse quando tutto il resto del mondo va avanti pur con mille attenzioni, con delle regole, presenza di persone un po' anticalcistiche, no? Che vanno un po' contro lo spirito e le abitudini dei tifosi, si può riaprire. Il momento più caldo è quello dell'assembramento ai tornelli, perché vanno chiaramente scaglionati gli accessi, ma poi per il resto uno stadio da 80.000 posti perché non può contenere 20.000 persone con delle indicazioni, con, che ne so, due posti vuoti tra uno e l'altro, no? Gli stadi, soprattutto quelli che hanno tutti, ormai sono quasi tutti così, hanno tutti i posti a sedere. È chiaro che poi il comportamento del tifoso è, insomma, è un torture test, come dicono gli inglesi, perché è chiaro che l'istinto di abbracciare il tuo amico dopo il gol è grande, eh? Quindi non è semplice, però, secondo me pian piano ci si arriva, chiederemo un po' di autocontrollo ai tifosi, ma ripeto, nel solito discorso, sarà sempre meglio andare allo stadio e vedere la partita pur senza potersi abbracciare che non andarci proprio. Senti Pier, ti diamo tutti e due, io e Giovanni, appuntamento a domenica, perché anche qui ricominciamo. Domenica tutti, tutti convocati, weekend. Io raggiungo la mena località con Ferrara. E salutaci Ferrara. Noi invece restiamo qui, ascoltiamo la borsa e subito dopo convochiamo Antonio Di Polina, perché mi sembra che anche guardando in giro per l'Europa il tema televisivo sia centrale. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Riesco a capire come in uno stadio da 70.000 posti non si possano far entrare 10.000 persone, a voglia di distanziamento. Poi vediamo i supermercati strapieni di persone, le mega manifestazioni, è tutto così irreale, così assurdo. Buh. Dopo la riapertura delle discoteche io voglio tornare allo stadio, pretendo di tornare allo stadio. Hashtag fateci andare allo stadio. Caro Giovanni, hai capito dove andiamo a parare nei prossimi tempi? Eh? No, ma io ho capito benissimo. Allora, io voglio essere sincero, capito, e sai quanto ci siamo spesi perché accadesse quello che accadrà da questa sera alle ore 21. In questo momento io ritengo sia ancora inopportuno parlare di ritorno negli stadi, non sia nemmeno forse giusto. Il calcio e lo sport in generale hanno delle specificità che lo rendono da trattare con i guanti. Certo. Ecco, magari cambiamo quel protocollo, magari insomma facciamo le cose perché si possa arrivare in fondo, però con buon senso. Prendiamoci il modello tedesco. I tedeschi giocano a porte chiuse e a noi per il momento può andare bene così. Sì. Certo che se continuiamo a riaprire tutto, e questa è una bella notizia perché significa che ce lo possiamo permettere, probabilmente arriverà con un po' d'anticipo il momento in cui si possa discutere del perché invece dentro uno stadio si debba andare a porte chiuse e quindi restare a casa davanti alla televisione. È soltanto questo il tema, in questo caso non si tratterebbe di ristabilire una realtà che veniva negata, come quando un mese fa si parlava di non far ripartire il calcio. In questo caso sarebbe semplicemente da adeguarlo a ciò che viene previsto per tutto il resto. Intanto con grande gioia questa sera frittatone di cipolle e tutto quel che ne consegue. Ciao Antonio Di Polina. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ti aspetti, allora condividerai Giovanni la soddisfazione di avere Antonio Di Polina, perché la prima domanda è che dati di ascolto si aspetta questa sera dalla partita. Ci deve dare un numero, poi noi controlliamo domani. Allora, buttiamo lì un 11. Nel senso dei, milioni di spettatori, parametrato sui 10 che queste partite facevano l'anno scorso. Diciamo che tra anche semplici curiosi che vorranno non perdersi quantomeno un po' di evento vero, perché si tratta di un evento vero, quello di stasera, e di gente che si metterà lì per dire che quello, solo per dire per tutta la partita che quello non è calcio, ne arriveranno probabilmente ancora di più. Però effettivamente spiegatemi perché stasera bisognerebbe vedere altro in televisione. No, ma permettimi un istante di filosofia. Sofia Spicciola, lasciateci in pace, lasciateci in pace anche voi, per i quali ma perché devono giocare a pallone, ma in questo momento perché il calcio, almeno noi prendiamo tutti, semplicemente noi prendiamo in pace. Tutti Carlo. Come? Vasto programma, tenere buoni tutti quelli, impossibile, saranno tantissimi per lamentarsi, per twittare, per, e per dire che non è bello in questo modo. Non è bello, non è etico, non è sano. Lasciateci invece festeggiare il nostro 25 aprile, torno a ripetere, liberazione dello sport italiano. La tua maggiore curiosità qual è, Antonio? Ma la sensazione, cioè di scoprire qual è la sensazione mia diversa rispetto al fatto di rispetto alle sensazioni che ho avuto vedendo la Germania e vedendo ieri sera il derby di Siviglia, per esempio. Voglio capire se davvero c'è un grande valore aggiunto. Vabbè, domani sera ci sarà in ogni caso, diciamo, ma capire se la sento, quanto la sento molto mia anche questa ripresa che è nostra e che dopo un po' spero che di riuscire a non pensare più agli spalti vuoti o a cose di questo genere, ma di concentrarmi. Mi è sembrato, posso sbagliarmi, vedendo l'estero, nessuno sbaglia più i rigori, si va lì tranquilli, non c'è la gente davanti, non c'è il pubblico, pum via. Ora è un bene e un male che non si sbaglino più i rigori, ammesso che sia vero, ma io li ho visti, mi è sembrato di vederli segnare tutti, e quindi è un particolare che mi incuriosisce, sì, sì. Anche quello, per esempio, potremmo vederne tanti sia stasera che domani, dato che sono stati levati anche i supplementari, più domani che stasera, onestamente. Però insomma abbiamo un po' così una deformazione, no Giovanni? Ma ci sono pochi contrasti, ma non ci sono i dribbling, e tutte queste cose credo che dipenda anche dalla condizione fisica e da fattori di questo tipo, oppure guardiamo le cose con particolare attenzione dovuta alla situazione. No, ma guarda, noi guardiamo quello che viene. Ad esempio in Germania i dati dei chilometri percorsi anche a buona intensità dalle squadre dopo la ripresa è un dato addirittura superiore a quello che correvano prima. Quindi sembrerebbe cancellare quest'idea che si correrà meno. Magari lo si farà in alcuni passaggi della partita su ritmi più bassi, poi la partita la fanno la qualità delle squadre, e per questo io mi aspetto che comunque questa sera e domani siano due grandi belle partite. Io non so se sarà così per tutte le altre 124, cioè quelle del campionato, perché con il massimo rispetto per tutti, Brescia-Sassuolo resterà sempre Brescia-Sassuolo, magari con un po' meno motivazioni rispetto a un Napoli-Roma, per intenderci. E poi invece su come ci approcciamo a questa partita, noi abbiamo vissuto uno dei due match scudetto già in queste situazioni, 8 marzo Juventus-Inter. Io però ho l'impressione, lo dico anche da utente, che il modo con cui ci siederemo davanti alla televisione sarà profondamente diverso, perché allora tu sapevi di essere alla vigilia di qualcosa che ancora non conoscevi, ma che di sicuro non sarebbe stato né corto né piacevole. Oggi c'ha proprio un significato diverso. Insomma, oggi anche io credo quelli che per settimane hanno tirato contro la ripresa del calcio avranno un brivido di piacere nel vedere quel pallone che torna. Sì, noi di sicuro. Antonio, sembrava, a proposito di modello tedesco, sembrava fatta per l'accordo con Sky per vedere un paio di partite, 2-3 partite nei primi 2-3 turni del campionato in chiaro sulla 8, mentre arriva la diffida di Mediaset. Adesso questo castello cade, mi pare di aver capito. Posso sbagliarmi, ma mi sembra che la questione si sgonfierà in breve tempo, o comunque non avrà quella rilevanza che si tende a dare. Prima di tutto perché ora come ora abbiamo tre grosse partite che saranno tutte in chiaro, e questo raffredda un po' la situazione, ci lascia tranquilli e soprattutto consente di prendere tempo ancora, cioè non siamo ancora nella fase caldissima di questa decisione. Poi leggo se due tre partite nei primi turni e c'è dentro Atalanta-Sassuolo, inizia a non tornarmi più qualcosa, cioè il chiaro dovrebbe servire anche a non favorire gli assembramenti nei bar, nei club, nei pub e così via. Cosa vuol dire? Che Atalanta-Sassuolo la dà in chiaro con i bar vuoti, e poi appena giocano Inter, Juve e Milan sono criptate nei bar. Ma peraltro ragazzi, peraltro ragazzi di che cosa stiamo parlando? Cioè, come se fino alle ore 14:44 di oggi, venerdì 12 giugno, noi non avessimo visto degli assembramenti per gli aperitivi o per altre cose nelle ultime due o tre settimane. Cioè, anche questo tema io trovo che sia tutto giusto e tutto bello, anche dare il significato simbolico di far vedere qualcosa in chiaro, oltre alla Coppa Italia che in chiaro ci va per bando e per diritto che è stato venduto, però mi sembra che si stia veramente facendo un feticcio di una cosa che alla fine sposterà pochissimo nella curva dei contagi, probabilmente zero, perché chi va a fare la movida ci va lo stesso. Ma sì, ma mi sembra tutto abbastanza pretestuoso e un pelo demagogico. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, perché con Antonio Di Polina vorrei, per terminare, dare un'occhiata al futuro del mercato dello sport in televisione. Traffico. Abbiamo aspettato tanto questo momento, godiamocelo. Stasera riprende il calcio, poi fra qualche tempo cominciamo a parlare di riaprire gli stadi, ok? Parliamo della partita di stasera, dai! Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, ci sono due cose che mi hanno profondamente incuriosito leggendo il modo in cui succedono le cose all'estero per quanto riguarda il calcio in TV. Ad esempio, in Inghilterra c'è una situazione diametralmente opposta rispetto a quella in Italia, dove c'è uno scazzo interminabile e che andrà avanti ancora per un po' tra Lega e Sky. In Inghilterra totale luna di miele, perché i club della Premier League hanno già incassato l'ultima rata dei diritti TV e si sono impegnati a restituire una parte di questi soldi, una parte mica piccola, 370 milioni di euro, perché le partite non saranno giocate come da contratto, ma saranno disputate in orari, mesi diversi, eccetera. Inoltre c'è una grande apertura, sempre in Inghilterra, alle partite in chiaro. Questo è un punto. L'altro punto, Antonio Di Polina, Bundesliga che tratta il rinnovo del contratto di diritti televisivi addirittura al rialzo e con molti più competitor rispetto al passato. Sì, sono altri mondi, l'hai detto tu, l'hai sottolineato in partenza. Evidentemente c'è un mood, un clima, una tradizione, una storia, una cosa per cui ci si siede. Poi non è che non succedono le cose, perché è successo che Amazon si è fatta viva e ha preso delle partite e così via, quindi il futuro si intravede, ma intanto a loro interessa molto anche il presente e l'immediato futuro da portare avanti, e hanno le idee molto più chiare che da noi, a occhio e croce, o perlomeno da noi si corre sempre all'ultimo momento. Quando prima parlavo di situazione raffreddata da questo punto di vista sulla questione calcio in chiaro, al momento è abbastanza freddo anche tutto il resto, salvo poi che a un certo punto si divamperà tutto di colpo quando i giochi si faranno, e soprattutto bisognerà capire che diavolo di stagione sarà la prossima, per esempio. Da quello dipenderà molto. Ora come ora ci vorrà un palla di vetro per capire cosa c'è in Italia. L'atteggiamento ovviamente di tutti è da un lato di incassare, dall'altro di risparmiare, sì, il più possibile, e si va avanti all'italiana in questo modo. Ma il fatto che la Germania tratti... per l'estero, c'hai ragione. Ma il fatto che la Germania andrà a trattare al rialzo i diritti TV oltre 5 miliardi di euro, quindi più di quanto prendesse prima, è da leggersi come un addirittura crescente interesse per il prodotto, magari determinato dal momento, oppure qualcosa di estemporaneo? No, io credo che l'asset calcio è comunque una cosa da cui non si potrà assolutamente prescindere, e va a incontrare altri fenomeni, tipo la crisi evidente ormai ovunque della TV generalista, dei programmi della TV generalista d'altro tipo, in favore dello streaming e di tutto quello che sarà il futuro e di come sarà fatto, ma in quel contesto, cioè un futuro fatto in televisione soprattutto di calcio e di serie TV, secondo me è abbastanza credibile, dal mio punto di vista anche auspicabile, però questo è un altro discorso. Sei d'accordo, Giovanni? Sì, io devo dirti, mi stupisce la notizia che viene dalla Germania, perché si era capito che con il prossimo ciclo di diritti TV ci sarebbe stata una frenata, un rallentamento. Esatto. Anche gli inglesi, insomma, avevano messo in conto un segno meno nei loro ricchissimi contratti. Invece evidentemente il calcio, come dice Di Polina, continua a tirare, lo farà anche nelle prossime stagioni. Io torno a quello che ci disse, se ti ricordi, Adriano Galliani, oramai un mese e mezzo fa, disse: io, da vecchio navigatore di questi mari, una delle prime cose che farei sarebbe quella di chiedere una deroga di un anno sulla legge Melandri, per evitare di andare adesso a vendere i diritti del 21-24, sì, perché in queste condizioni è difficile riuscire a fare meglio di quello che si è fatto prima. Vedo che del tema non si è parlato, non so se poi Antonio ha notizie diverse, magari insomma in segrete stanze si è affrontato anche questo tipo di tematica, però mi pare che il grande ritardo del calcio italiano sia questo, cioè far fatica sempre a provare a costruire un piano ragionato di uscita da qualunque situazione, a maggior ragione di un'emergenza, e l'idea di andare muro contro muro con Sky non mi è sembrata una strategia straordinaria. Magari incassi, però nel lungo termine non mi è sembrata una strategia straordinaria. Antonio? Sì, da questo punto di vista credo che anche i più esperti in questo momento, quelli dell'economia verde, quelli dalle vostre parti per intenderci, non è che hanno ancora un'idea abbastanza precisa di quale sarà per esempio il futuro strategico di Sky, in persona che in questo momento a tempi brevissimi si metterà per esempio soprattutto a vendere internet nelle case, e quindi questo è un cambio che nessuno ha ancora capito quanto potrà distogliere, sviare gli obiettivi, diversificare le strategie di un'azienda che è cambiata moltissimo negli ultimi tempi, e quindi tracciamo anche qui un punto interrogativo gigante e aspettiamo di vedere quello che succede. Ma quello che dicevate prima, cioè di capire innanzitutto cosa sarà il prodotto calcio e la proroga chiesta da Galliani, probabilmente ha assolutamente un senso e dovremo rifarci a questo soprattutto. Senti, mio caro da interista, per chiudere ti chiedo una cosa, ma perché Inter, che sarà in campo domani sera, che è in corso su tutto, perché io sono d'accordo con Chiellini che ha dato il giornale, ma perché non ci mettete l'Inter tra le favorite allo scudetto? In fondo, se vince il recupero a Sampdoria sono a meno 6, è in corsa in Coppa Italia, è in corso in Europa League, dove ci potrebbe essere anche in questo caso la bellissima idea e soluzione del final rating nel caso di specie in Germania. Ma perché l'ambiente interista vive con una certa depressione questa ripresa, una certa malavoglia questa ripresa? Perché l'ultimo atto conosciuto che abbiamo vissuto è stato quello Juventus-Inter, che è andata come è andata. Dopodiché, se vuoi la mia esperienza personale, tutti stanno parlando di cosa hanno sognato di notte durante l'emergenza, tra incubi e sogni. Io ho avuto sia incubi che sogni, ma in una finestrella piccola a destra avevo un'immagine fissa ed era quella di Eriksen. Se risolviamo il problema Eriksen magari già da domani, cercando di capire se abbiamo fatto il colpo del secolo oppure è esattamente il suo contrario, a quel punto vediamo anche cosa fanno gli altri, vediamo sì. come sarà questo calcio stranissimo che magari porterà sorprese di vario tipo, magari fattore campo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, grazie Antonio. Grazie davvero. Il fatto che Eriksen diventi un problema è già molto strano, Se lui no, è stranissimo, però Carlo bisogna dire che lo è stato, sì, perché tu ti puoi dover rimettere in condizione 2 settimane, 20 giorni, forse un mese, certo. Ma insomma Eriksen era semplicemente una riserva nell'Inter e fa pugni con il tipo di calciatore che invece è, la qualità che conosciamo. E dico solo, ma tanto abbiamo tempo da qui in poi di poi avere la controprova, che se si gioca un calcio post coronavirus, non dico con meno chilometri corsi, ma magari con qualche ferocia in meno a livello di ritmo, insomma, uno come Eriksen probabilmente può andare benissimo e di lusso anche ad Antonio Conte. Io faccio fare una battuta ad Alberto, provincia di Milano, che è un ascoltatore in linea, abbiamo 30 secondi, dica Alberto. No, è una cosa veloce. Dica. No, prima parlavate del fatto di fuori dallo stadio. Io ho pensato che, visto il lockdown che c'è stato proprio per i bambini, io non sono un tecnico, non sono un medico, di uno stadio come San Siro che ha 65.000 posti, portare 25.000 bambini a €1 l'uno, distanziati e tutto, sarebbe una cosa bellissima, cioè, sarebbe una cosa che io, mio figlio quest'anno volevo portare a vedere Milan-Atalanta, ma io purtroppo è andata come è andata, non sono un tifoso per tutti gli anni, tutte le domeniche, certo. No, ma sarebbe tutto sarebbe bellissimo, come sarebbe tutto bellissimo con i tempi giusti, sarà tutto realistico, credo, far entrare la gente allo stadio con i tempi giusti. Intanto sarà bellissimo trovarci domenica, Giovanni, alle 17 sarà bellissimo e ci è mancato, spero sia mancato anche a tutti gli altri, quindi domenica 17-19 avremo sul tavolo anche Napoli-Inter da commentare, certo. Ci cominceremo a buttare su quello che accadrà mercoledì nella finale di Roma. Stiamo cercando un paio di ospiti di quelli giusti, per aiutarci in questa prima domenica post coronavirus. Dico una cosa in 2 secondi, sarebbe bellissimo gli bambini a €1 distanziati, però io credo che quando si riaprirà sarebbe bellissimo anche ricominciare da quelli che il biglietto l'hanno già pagato con gli abbonamenti, anche se hanno un po' più di 10 anni. Doveroso, più che bellissimo, doveroso. Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica, ovviamente. A domenica. Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato, regia. Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, assistenza, redazione, ciao a tutti. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.